terzo anello, ad alta voce, la montagna incantata di Thomas Mann. Ai pasti, nella sala multicolore, Castorp si trovava un po' imbarazzato, perché dopo quella passeggiata intrapresa per conto suo, gli era rimasto il tremito della testa, alla maniera di suo nonno. Proprio a tavola gli veniva quasi regolarmente, ed egli non riusciva a reprimerlo, e difficilmente a nasconderlo. Madame Chauchat arrivava quasi sempre in ritardo, e finché non veniva Castorp seduto, non riusciva a tener fermi i piedi, perché aspettava lo schianto della porta vetrata, che accompagnava immancabilmente l'ingresso di lei, e sapeva che in quel punto avrebbe provato una scossa e si sarebbe sentito sbiancare in viso, come infatti avveniva ogni volta. Da principio aveva voltato sempre di scatto la testa e accompagnato con stizza e con occhiate irose la noncurante ritardataria fino al suo posto alla tavola dei russi a modo, magari lanciandole fra i denti a mezza voce un'ingiuria, una parola di indignata riprovazione. Ora non lo faceva più. Chinava più profondamente la testa sul piatto, mordendosi addirittura un labbro, o la girava con intenzione e ad arte dal lato opposto. Gli pareva infatti che non spettasse più a lui andare in collera. Aveva l'impressione di non essere libero di biasimare, di essere invece anche lui reo di quello scandalo e corresponsabile davanti agli altri. Insomma, si vergognava. Ma sarebbe inesatto dire che si vergognava per la Chauchat. No, si vergognava lui, in persona, di fronte alla gente. E avrebbe potuto farne a meno, perché nella sala nessuno si curava del malvezzo di Madame Chauchat, né della vergogna che Hans Castorp provava, tranne forse la insegnante, la signorina Engelhardt, alla sua destra. Questa misera creatura aveva capito che la suscettibilità di Castorp, urtata dallo sbattere della porta, aveva fatto sorgere una specie di rapporto sentimentale fra il giovane vicino di tavola e la signora russa, e infine che l'indifferenza di lui simulata, molto male simulata per mancanza di esercizio e di attitudini sceniche, non denotava un attenuarsi, ma un rafforzamento, una fase superiore del rapporto stesso. Senza pretese e senza speranze per sé, la Engelhardt si diffondeva continuamente in discorsi disinteressati ed entusiasti intorno alla Chauchat. Ed era strano che Castorp, se non subito, a lungo andare avvertisse e indovinasse perfettamente le provocanti insistenze di lei, anzi ne fosse disgustato, senza perciò subirne meno volentieri l'influsso e la seduzione. «Bonfete!» esclamava la vecchia signorina. «Questa è lei. Non occorre nemmeno alzare gli occhi per sapere chi è entrato. Sicuro, ecco. Ecco lei. Che passo delizioso. Proprio come una gattina che striscia verso la scodella del latte. Vorrei che potessimo scambiare i nostri posti. Lei la potrebbe osservare comodamente e con disinvoltura come la vedo io. Capisco che lei non voglia girare sempre la testa da quella parte. Chissà che cosa le verrebbe in mente se lo notasse. Adesso dice buongiorno ai suoi. Eppure lei dovrebbe dare un'occhiatina. È tanto piacevole a guardarla. Quando sorride e parla, come ora, le si forma una fossetta sulla guancia. Non sempre, solo quando vuole. È proprio una coccolona d'oro. Una creatura viziata. Per questo è così indolente. È una di quelle persone che, volere o no, si devono amare, poiché se anche indispettiscono con la loro negligenza, il dispetto è uno stimolo in più ad affezionarsi a loro. È così bello stizzirsi, e ciò nonostante dover amare. Così sussurrava la maestra con una mano sulla bocca, senza farsi udire dagli altri, mentre il morbido rossore delle sue guance di vecchia zitella facevano pensare alla sua temperatura alterata, e le sue chiacchiere voluttuose penetravano nelle viscere del povero Castorp. Una sua mancanza di indipendenza creava in lui il bisogno di sentirsi confermare da terzi che la Chauchat era una donna deliziosa, e oltre a ciò il giovane desiderava di essere incoraggiato dal di fuori ad abbandonarsi a sentimenti cui la sua ragione e la coscienza opponevano incomode resistenze. Con la furbizia che non era nel suo carattere, Castorp fingeva di credere che gli entusiasmi della signorina Engelhardt per la signora Chauchat non significassero ciò che, ed egli lo sapeva benissimo, significavano in realtà, ma fossero una cosa a sé, un fatto buffo, col quale lui, l'indipendente Hans Castorp, poteva prendere in giro la vecchia zittella da una posizione distaccata e umoristica. E siccome era sicuro che la sua manutengola avrebbe lasciato passare e accettato questa sfacciata distorsione, non correva alcun rischio. «Buongiorno», disse una volta. «Ha dormito bene? Spero che non avrà sognato la sua bella minca. Ecco, subito diventa rossa, basta nominarla. Ha preso una cotta per quella donna. Dica la verità». E la maestra, che era arrossita davvero, si chinò sopra la tazza e mormorò con l'angolo sinistro della bocca: «Oh via, signor Castorp, non è bello da parte sua mettermi così in imbarazzo con le sue allusioni. Tutti vedono che abbiamo di mira lei e capiscono che lei mi dice delle cose delle quali devo arrossire». I due commensali si comportavano in modo veramente singolare. Entrambi sapevano che mentivano a tutta forza, che Castorp, pur di poter parlare della Chauchat, se ne serviva per punzecchiare la maestra, ma trovava un piacere malsano e indiretto nel celiare con la zitellona, la quale a sua volta stava al gioco, anzitutto per la smania di far da mediatrice, poi anche perché realmente desiderosa di far piacere al giovane, si era un po' innamorata della Sciosciaa, e infine perché, poveretta, trovava gusto a farsi berteggiare da lui e montare il sangue al viso. Tutte cose che entrambi sapevano di sé e dell'altro, come sapevano che ognuno lo sapeva di sé e dell'altro, e tutto ciò era intricato e poco pulito. Ma benché le cose intricate e poco pulite gli ripugnassero in complesso, e anche in questo caso, Castorp continuò a sguazzare in quel torbido elemento e cercava di tranquillarsi, considerando che in fin dei conti era là soltanto in visita e tra poco sarebbe ripartito. Con simulata oggettività giudicava da esperto la figura della trasandata. Dichiarava che, vista di fronte, appariva decisamente più giovane e più bella che di profilo, che aveva gli occhi troppo distanti fra loro, che il portamento lasciava molto a desiderare, ma in compenso, sì, aveva le braccia belle e morbide di forma. E mentre lo diceva si sforzava di nascondere il tremito della testa, e intanto non solo dovette riconoscere che la maestra notava i suoi vani sforzi, ma, con suo grande disgusto, scoprì che anche lei tentennava il capo. Ed era stata soltanto diplomazia, artefatta astuzia, se aveva chiamato Madame Chauchat la bella minca. Infatti ciò gli consentì un'altra domanda. Dico minca, ma chissà come si chiama in realtà, di nome intendo. Innamorata com'è incontestabilmente, lei ne deve certo sapere il nome. La maestra rifletté. Aspetti, lo so, rispose. Lo sapevo. Non si chiama Tatiana? No, non è questo. E nemmeno Natasha. Natasha Chauchat. No. Non l'ho sentito così. Un momento, ho trovato. Andoscia si chiama. O è qualcosa di simile. Poiché certamente non si chiama né Katienka né Ninochka. Mi è proprio uscito di mente. Ma se lei ci tiene, mi sarà facile saperlo. Il giorno dopo lo sapeva davvero. Lo pronunciò a mezzogiorno, a colazione, quando la porta vetrata si chiuse con uno schianto. La signora Chauchat si chiamava Claudia. Thank you. La seconda settimana era già avanzata, ne erano passati quasi 2/3 e al sopraggiungere dell'ultimo terzo si sarebbe cominciato a pensare alle valigie. Il periodo in cui il senso del tempo si era rianimato, Castorp lo aveva già superato da un pezzo. I giorni cominciavano già a volar via e volavano, nonostante che ciascuno di essi si allungasse in una sempre rinnovata attesa e fosse gonfio di tacite, recondite esperienze. Eh sì, il tempo è un mistero difficile da chiarire. Sarà forse necessario dare un nome a quelle recondite esperienze che appesantivano le giornate di Castorp e a un tempo le rendevano alate? No, tutti le conoscono. Erano le solite nella loro nullità sensibile. Non avrebbero potuto svolgersi diversamente. Non era possibile che Madame Chauchat non avesse notato nessuno dei fili che si stavano tessendo fra una certa tavola e la sua, e che lei ne notasse qualcuno, anzi possibilmente molti, rispondeva proprio alle sbrigliate intenzioni di Castorp. Le diciamo sbrigliate perché egli capiva benissimo quanto il suo caso fosse irragionevole, ma chi si trova nelle condizioni nelle quali era o cominciava ad essere lui vuole che l'altra parte le conosca, anche se non vi è senno né buon senso. L'uomo è fatto così. Dunque, dopo essersi girata 2 o 3 volte durante il pasto per caso o per attrazione magnetica verso quella tavola e avervi incontrato ogni volta gli occhi di Castorp, la signora Chauchat guardò la quarta volta con intenzione e ancora incontrò quello sguardo. Alla quinta non lo colse subito, egli non stava allerta, ma sentì immediatamente che lei lo guardava e fu così premuroso a fissarla che lei distolse il proprio sguardo sorridendo. Quel sorriso lo empì di diffidenza e delizia. Se lei lo credeva un bambino, si ingannava, ed egli provò un grande bisogno di raffinare il contatto. Alla sesta occasione, intuendo, sentendo, acquistando l'interiore certezza che lei lo guardava, finse di osservare con vivo disgusto una signora pustolosa che si era avvicinata alla sua tavola per chiacchierare con la prozia. Tenne duro per 2 o 3 minuti e non cedette, fin quando non fu sicuro che gli occhi kirghisi avevano smesso di guardarlo. Curiosa commedia che la Chauchat non soltanto poteva, ma doveva indovinare, affinché la grande finezza di Castorp e la sua padronanza di sé la rendessero pensosa. Andò così. La signora Chauchat, tra una portata e l'altra, si voltò con noncuranza e guardò la sala. Castorp stava allerta e i loro sguardi si incontrarono. Mentre i due si fissano, la malata spiando vagamente e con aria beffarda, Castorp, con convulsa fermezza, strinse persino i denti mentre sosteneva lo sguardo di lei, il tovagliolo sta per sfuggirle, per scivolarle giù dal grembo. Con una mossa nervosa fa per prenderlo, ma anche lui ne rimane scosso. Balza a metà dalla sedia e alla cieca, pronto a superare 8 metri di spazio e a girare intorno a una tavola posta fra mezzo, vuol correrle in aiuto. Come se toccando terra il tovagliolo dovesse scatenare una catastrofe. Ma lei lo afferra a un pelo dal pavimento. Da quella positura curva, china a terra di traverso, stringendo il tovagliolo per la cocca, rabuiata in viso, chiaramente indispettita per il po' di panico inconsulto di cui è stata vittima e del quale a quanto pare attribuisce la colpa a lui, si volta ancora a guardarlo. Lo vede pronto al balzo, nota le sue sopracciglia sollevate e si volta, sorridendo. Il suo secondo conto settimanale, dunque, era saldato da 3 giorni verso pietanza accompagnata da ringraziamenti, il che significa che Castorp si trovava alla metà della terza e, secondo i piani, ultima settimana del suo soggiorno lassù. E martedì, poi, o mercoledì, sarebbe partito, lasciando Joachim un'altra volta solo. Il povero Joachim, cui Radamanto aveva pioppato chissà quanti mesi ancora e i cui dolci occhi neri si velavano di malinconia ogni qualvolta il discorso cadeva sul rapido approssimarsi della partenza di Castorp. Dio buono, dove erano andate a finire le vacanze? Trascorse, fuggite, dileguate, non si sapeva come. In fin dei conti si trattava di 21 giorni che essi dovevano passare insieme, una lunga fila, difficile da immaginare sul principio, e ora non ne rimanevano che 3, 4 misere giornate, un residuo assai poco vistoso, un po' mosso, è vero, dalle 2 periodiche varianti della giornata normale, ma già occupato dal pensiero di fare le valigie e partire. 3 settimane erano niente lassù. Tutti glielo avevano detto subito. Sembrava, infine, che Castorp dovesse ritornare in pianura con un raffreddore di prim'ordine. Si era buscato una costipazione, probabilmente durante la cura sulla sedia a sdraio, e se continuiamo a far supposizioni, proprio di sera, poiché da circa una settimana faceva anche lui la cura, nonostante il tempo freddo e umido, che pareva non volesse migliorare prima della sua partenza. Il venerdì Castorp era appena tornato dalla passeggiata mattutina, allorché udì bussare, ed ebbe occasione di conoscere di persona la signorina von Millendonck, ossia la superiora, come la chiamavano. La superiora insistette a fissarlo in viso, sempre però con lo sguardo un po' sviato. «Vi siete misurato?» Egli rispose di no. «Perché no?» domandò lei lasciando a mezz'aria lo sghembo labbro inferiore. Egli tacque. Il bravo ragazzo era ancora tanto giovane da osservare il silenzio dello scolaro che in piedi nel banco non sa rispondere e tace. «Ma non vi misurate mai?» «Oh sì, signora, quando ho la febbre.» «Figlio mio, in primo luogo ci si misura per sapere se si ha la febbre. E ora siete del parere di non averla?» «Non so proprio, signora, non riesco a distinguere. Ho un po' caldo, un po' freddo, fin da quando sono venuto.» «Vedo. E dove avete il termometro?» «Non ce l'ho, signora. A che scopo? Sono qui soltanto in visita e sono sano.» «Fanfaluche, mi avete fatto chiamare perché siete sano?» «No.» Sorrise lui gentilmente. «Soltanto perché mi sono un po' raffreddato. Abbiamo visto altre volte codesti raffreddori. Ecco qui», disse, e frugò di nuovo nella borsa, donde tolse 2 astucci di cuoio, lunghi e stretti, uno nero e uno rosso, che pure posò sulla tavola. «Questo costa 3 franchi e 50, e questo 5 franchi. Naturalmente vi troverete meglio con quello di 5. Se lo trattate come si deve, vi può servire per tutta la vita.» Egli prese sorridendo l'astuccio rosso e lo aprì. Elegante come un gioiello, l'oggetto di vetro giaceva nel solco ricavato dall'imbottitura di velluto rosso, esattamente secondo la sua forma. I gradi interi erano segnati con righe rosse, i decimi con righe nere, le cifre erano in rosso. La parte inferiore era stremata, era piena di mercurio lustro e specchiante. La colonna era bassa, fredda, molto al di sotto del grado che ha normalmente il calore animale. Castorp sapeva il suo dovere verso se stesso e verso la sua reputazione. «Prendo questo», disse senza neanche considerare l'altro. «Questo da 5. Potrei subito...» «Sta bene», gracidò la superiora. «Non bisogna essere spilorci quando si fanno acquisti importanti. Non c'è fretta. Lo troverete nel conto. Date qua. Prima occorre farlo diventare piccino, cacciarlo in fondo. Così.» E toltogli di mano il termometro, lo scosse più volte nell'aria e spinse il mercurio ancora più in basso, fin sotto i 35. «Salirà, lasciate fare, monterà il dio mercurio», disse. «Ecco il vostro acquisto. Lo sapete già come si fa qui da noi. Sotto l'aspettabile lingua per 7 minuti, 4 volte al giorno, e chiudere bene le gentili labbra. Addio, figlio mio. Vi auguro buoni risultati.» E uscì.